Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Se la protesi la opera anche il robot, ogni anno in Italia si effettuano circa 175.000 interventi chirurgici di protesi alle articolazioni, in gran parte per l'anca e per il ginocchio. Da qualche anno, ad aiutare il chirurgo ortopedico, in sala operatoria sono arrivati i robot. A Obiettivo Salute il professor Michele D'Arienzo, direttore della clinica ortopedica e traumatologica dell'Università di Palermo, ci racconta i vantaggi di questo particolare aiutante. Il robot da qualche anno viene utilizzato nelle nostre sale operatorie per fare interventi parziali di protesi di ginocchio o protesi totali e nelle protesi di anca. L'aiuto che il robot ci può dare è quello del corretto posizionamento grazie all'utilizzo di sistemi intraoperatori e del planning preoperatorio con TAC e cose varie, il corretto posizionamento della protesi. Questo si traduce in un miglior risultato a distanza nel corso degli anni. A proposito di protesi, se volete saperne di più, ascoltate l'approfondimento del professor D'Arienzo sulle pagine di Obiettivo Salute. Bevande vegetali sempre più diffuse e apprezzate, ma quali scegliere e come inserirle nella nostra dieta quotidiana? A Obiettivo Salute Massimo Gualerzi, cardiologo, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, ci spiega quali scegliere. Le bevande vegetali fanno sempre più parte della nostra alimentazione, ad esempio quelle che vanno a sostituire il latte tradizionale. Iniziamo la mattina molto spesso con queste bevande, diciamo vegetali a base di riso, a base di avena, a base di soia, che hanno il grande vantaggio di ridurre l'apporto proteico animale, quindi ridurre anche una delle possibili fonti fluorogene del nostro organismo. Quindi dal mio punto di vista sono appropriate per iniziare la giornata, quindi fare una colazione con cereali e queste tipologie di latte. Attenzione a non abusarne troppo perché logicamente contengono molto spesso degli zuccheri ed alcune di esse anche il sale, quindi sempre a leggere le etichette. E se invece delle bevande vegetali preferite i succhi, niente paura, sulle pagine di Obiettivo Salute la guida del dottor Gualerzi. E a proposito di alimentazione, tra poco in diretta video con Michela Carola Speciani parliamo di frutta autunnale, della dieta amica del sonno, di vitamina D e dintorni. Vi aspetto naturalmente. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Io vi aspetto in diretta, ci sentiamo domani, sempre a mezzogiorno, quando scocca l'ora della salute. Un saluto da Nicoletta.